settimana, intanto se n'è andato. Dimmi come stai facendo con questo Cobra a chiodo arrugginito di radio lì a Mulos, come mi ascolti? Cambio. Ma io sono qua, ma me ne passa la voglia di parlare, credetemi, perché a questi livelli è veramente vergognoso, dai. Quindi ciao Claudio, buona serata, saluta babbo e mamma, dai. Avanti Gianni. Ecco, arriva e fregatene, ti danno soddisfazione a certa gente. Non ti preoccupare, tanto passavi quando attaccavo. Vabbè, ma non è modo di parlare, non è che uno deve staccare corrente per passare questi CPTO, perché sono CPTO, capito? Questo nello specifico è un CPTO, è proprio una cosa che non viene bene a descriverla, capito? Di quanto è CPTO, per non dire altro. È veramente vergognoso che ogni volta che ci facciamo due chiacchiere per ammazzare 10 minuti, una mezz'oretta, un'oretta, ci sia sempre questo coglione che deve mettere a portante. È una cosa assurda. Rosso, purtroppo il suo divertimento è quello, la saluva, invece non c'è altri svaghi nella vita. Chi è rimasto fra i superstiti? Io sempre l'ascolto. Ah, è Marco, caro. No, Gianni il caldo. Dai, ciao a tutti, riprendi chiodo. Quando fai questa voce sensuale, mi piace. Avanti chiodo. Ma non riprende, no, se n'è andato perché hanno messo la portante e si è incazzato. Con tutte le ragioni, perché in effetti non è da fare una cosa del genere. E lo so. Bisognava fare come si faceva prima, che usciva la ronda, quando lo trovava le bussava la porta e chiudeva la giusta. E conigli sono, perché se hai qualcosa con la persona la devi dire in faccia, non è che devi mettere la portante. E poi disturbi a tutti, quando metti la portante disturbi a tutti, non è che disturbi solo a me che mi sta mettendo la portante, disturbi a tutti gli altri che stanno facendo il PSO. Sì, ma che te lo fa fare a sprecare corrente per lui? Io non avevo fatto altro. Ho visto che quando ho detto la zona non ne ha messo più portante. Non è certo che sì. No, neanche io ne ho fatto uno, ho detto solo la zona. E quindi a buon intenditore poche parole. Comunque, è arrivato il tempo che sta succedendo questo e mi dispiace tantissimo. Io no, Gianni, non mi ascolto, non mi interessa. Continuate voi, io mi ritiro, no. Ma la giù c'è la guaglietta, io faccio i cazzi miei, mi vuoi bisogno, anzi di preoccupare, gli dici di là. Buona serata a tutti e buon divertimento, dai, alle prossime. Sì, claro, ve le state andando adesso che non c'è più portate, quando ve la portate bisogna arrivare. Ah, io e il resto, e fregate, non c'è più nessuno, non le stanno più mettendo portate. E chi non vuoi bene, buona la portante. Adesso te la metto io la portante, mi se te ne fai. Muro. No, ancora, davvero, ma è passata la voglia, cioè... Ho veramente fatto piazza pulita di tutto e non voglio arrivare a fare veramente piazza pulita di Bugano e Bura Antenna, perché sta diventando uno schifo, cioè non si può, dai. Siamo quattro gatti, che si buoni, che si dici media, a rompere le palle la gente, a uscire fuori dai vasi, a non avere un minimo rispetto di persone più grandi. Ma di cosa stiamo parlando? Dai, io ho iniziato a 14 anni a schiacciare il microfono a Porto Torres, hai capito? Il primo che mi ha attaccato proprio più, mi ha detto, tu che sei? Quanti anni hai? Dove abiti? Che radio stai usando? Cerca di comportarti bene perché sennò non ti facciamo entrare qua. È stato la buon'anima di Corsaro Nero, sotto Carmino Balsano e mio cugino in primo grado, Ernesto Toccai, capito? E c'avevo 14 anni. Allora mi venivano a casa a pigliarmi per portarmi in giro assieme a loro la domenica mattina a Barai, capito? Quindi di qua stiamo parlando. Ci vuole rispetto per le persone grandi, educazione. Siccome questi bambini, questi ragazzini non ne hanno educazione, perché i genitori sono peggio, e allora succede questo, capito? Ti capisco, là, ti capisco, ma cosa ci vuoi fare? Anche io ho iniziato a modulare, il primo che mi ha ascoltato era Andrea Oceano. E a due baci da te abitava, ero grito. No, era meno amata se capisuria. Non me lo ricordo, in via Giotto, senza dire la via. Già, tu ti ricordi dove abitava Torre Burroni, sì? Più o meno sì. Qua vengono in via Torre Sciacchi, 50 metri più giù c'ero io. Stupirati che quando Torre era ancora CB prima di diventare radioamatore, io ce l'avevo attaccato, mai ho avuto un problema, avevo il massimo rispetto io per le persone grandi, più grandi di me, e ho iniziato a 14 anni, nel 1974, capito? Nel 75 non ho preso la concessione, con l'autorizzazione perché ci volevano loro per i genitori, perché lo meno è. Invece qua stiamo permettendo a persone appena entrate di fare piazza pulita, ma di cosa stiamo parlando? Sì, vabbè, però in un certo qual modo gli avete dato le armi, Io gli ho dato le armi, ma io questa gente che si comporta in questa maniera l'ho eliminato dal primo giorno, perché se veramente mi trovo all'età che sono arrivato a Sassia nel 1987, quando usavo il TL 922 col 430 dentro Sassari, vedete che ribassava la macchina, non vedi niente, non ne ho più voglia, non ne ho più voglia, anche se ho le cose che posso fare, non mangio più gana a rompere le balle a nessuno, mi ritiro tranquillo, sereno, e ho altri cazzi per il culo, un gergo molto, molto volgare, capito, che stare a bisticciare con la gente in radio, perché veramente, è veramente gente che non merita nulla. Beh, ti capisco, uno entra in radio, anche io, vedi, entro in radio, mi faccio due chiacchiere, mi rilasso, invece non ti rilassi mai, tensioni sopra tensioni. Cioè, mi convene, cioè io entro in radio a rilassarmi e devo sentire di gente, non ti sento, 9:30, fondo scala, qui, là, e vada a fanculo. Dai, divertitevi, buona serata a tutti e rimango in ascolto, sono qua, ok, sono qua. Oh, no, devo tirare la torre di controllo, vabbè, rilassati, va. Se si incazza lui la torre di controllo va di l'anno e danno voti, infatti. Ma ti ripeto ancora, ribadisco, te lo giuro, come fa, non ne ho più voglia di essere con la gente. Però mi stanno costringendo veramente a diventare come ero negli anni 80, veramente. Il comportamento che hanno determinate persone senza avere rispetto nei confronti di una più grande, ok, senza nessuna presunzione, e avere un po' di educazione, sia di persona che in radio, capito? Invece le cose si stanno ribaltando, ok, no, non dico più niente, chi vuole capire capisce, avanti, dottor Ru. Ma anche lui se n'è andato. C'era il telefono Gianni. Che c'era meglio. Fidanzato, sarà con la fidanzata. Ah, ascoltando qua che c'era meglio. Ah, di quelli, che sto ascoltando sinceramente degli altri. Facebook, queste cose. Non mi interessa, ma io non appartengo a nessuna razza, capito, di internet. Io purtroppo farmi due chiacchiere da sempre, però. È una cosa che sta diventando un po' bruttina, quindi. No, quella è una cosa archiviata, ma non ti preoccupare, è una cosa archiviata, ma figurati, non ci stavo molto pensando io, ma fregatene, quella è una cosa archiviata. Sappi che se però a me mi dovesse arrivare qualcosa inerente a quella cosa lì, già te lo faccio sapere, non ti preoccupare, te lo faccio sapere, ti dico anche chi me l'ha mandata, in questo caso non ti preoccupare. No, quello che ha fatto Daniel di Oristano è un'altra cosa, mi... ce l'ho su WhatsApp, ho capito, non è un problema, quindi a me mi avvisa quando fa le cose, no, non c'è problema. Quella è una cosa invece che io manco sapevo, la ho già archiviata qua, non ti fare segmentari, fregatene, non ti preoccupare per quello. Se mi dovesse arrivare qualcosa di extra, già te lo faccio sapere io, vai tranquillo. Ehi, qua, non ti preoccupare, vai tranquillo, già siamo qua. Andabè, poveri noi, costretti a sottostare ai vizi degli adolescenti. Ehi, Arturo, già sono qua, io non c'è problema, non ho paura di nessuno. Io ho la bocca per parlare, le mani per difendermi e non ho problemi, non timo nessuno io. Se però qualcuno ha qualcosa da dire, che la ricca invece di rompere i coglioni in radio, tutto qua, non aggiungo altro. Va bene che va bene, doppio rumbo. Ehi, ehi, a te quando ti arrivava la portante per una soddisfazione? Oh, la portante 9 più 22. Allora, non può essere da su. Se tu sei lì vicino, scusate, dovrebbe arrivare almeno 9.35, 9.40. A me mi arriva 9.30. Ma tu non c'è la stessa antenna che c'è Antonio Riserva, no? ma lui è vicino, quella zona lì. Perché lo ero anche prima. Ho detto che io per quella zona sono un po' negativo, perché in realtà lo ero anche prima. Sicuramente ho qualche ostacolino, ma qualche stupidaggine, mi. Ma già così a tutti i bini. Cioè con quell'antenna, con quella, guarda che io parlo da solo davvero con la zona, hai capito? Perché io passo sopra e sino lì ci arrivo, non c'è nel problema, poi sono leggermente coperto per Sinoli, ma lì lo prendo in pieno Gianni, e mi arriva 9.20 a me, quindi a lui 9.22 con chi c'è antenna, noi ci abbiamo la stessa ricezione, lui c'è una boomerang, io faccio una mantova a 40 metri d'altezza, anzi 45 adesso, quindi già, vai tranquillo. Esatto, devi considerare anche che io ho l'antenna, ma la mia antenna non è alta, quindi anche se sono più alto di te già, però l'antenna è sempre più in basso della tua, e poi non è un'antenna che ha un guadagno come quella tua. E poi ripeto, basta un albero, mi, c'è una quercia davanti e te la fini nel culo. E rompe i coglioni! Ecco, è arrivato Falcone. Hai capito? E rompe i coglioni! Sai che c'è la voce di Falcone? Hai carri a rompere i miei coglioni? Che ti mandi i carabinieri 24-3364 e ci risponde la madre e dite gli bagassa. Lo segnalo le Ciantuio qua, sì, arriva fortissimo. Vabbè, io claro, non ho toccato niente, ho attaccato, vabbè, il rosmetro, non penso che sia il PL che mi faccia quel problema là, innescando, innescato. No, lascia no. Luca, claro. Quando c'hai tempo me lo mandi uno squillo che ho cambiato il telefono e ho preso tutti i numeri. Ah, ok, ok. No, Luca, stai andando bene, non c'è problema. Non è grande, già va bene. Ok, dai, riprendi Gianni, riprendi tu, 2 secondi che mi allontano per ordinare pizza. Ma vai a mangiare pizza, che ti ingrassa, che contiene lieviti. Ma gli attendi le zucchine bollite. No, io la prendo vegana, capito? Cioè, con la concice. Con la dietetica. Questo pezzo io la prendo vegana, mi piace, però mi dispiace che non l'ho registrato. Non vegetariana, vegana. Sì, vegana, come cazzo si chiama? Vegetariana, cioè non vegetariana, voglio vegetariana. E con la farina a fanculo, compro il pane tutti i santi giorni. Vabbè, farina integrale, cos'è? Farina integrale, farina macinata a pietra, cos'è? Farina integrale, sì, ok, con la farina integrale. Oh, beh, vabbè, vabbè. Sì, ma non è la farina, cioè della pizza, non avete ancora capito, quello che fa male, fa ingrassare, non è la pizza, è quello che ci mettete sopra. No, io la prendo capri e acciughe sempre, no, non è buono nulla, proprio capri e acciughe, bomba. Poi ti muovo una casarella, tu, una brittella. Una da paretta. Adesso che questa pizzeria sotto casa sta facendo i calamari, ma buoni, quelli croccanti, là. Li ho trovati di nuovo, quelli buoni. Il 20 noi abbiamo prenotato un bel pranzetto, il 20 novembre è il mio compleanno, mio di radio e mia figlia, quindi. Però ce li facciamo portare già pronti qua da 140 grammi vicino a casa. Oh già, ti ho fatto uno squillo, il 201 finale. Oh, il 28 è il mio, è là. Io lo so che tu sei scorpione. No, io sono sagittario. Pure io sagittario, il mio è il 16 dicembre. Cazzo di sagittario, tu sagittario, vabbè, no, io e mia figlia siamo scorpione. E mia moglie è bilancia. Vabbè, no, mia moglie è cancro. E mia figlia è TBC. E io faccio l'influenza. No, io il 28, chissà se non ci chiudono dentro. Non chiudo, che siamo passati dal 16% al 13%, già non chiude nessuno. Ma non hai visto a Nanni? Che già con la mascherina aveva una brutta faccia. Ma lui è brutto già di sé, a parte il fatto che non dura, ma non è che c'è il coronavirus. Lui c'è la mente malata, capito? Dico che è giallo. Secondo me era buono solo operare orecchie a sventola e basta. Ma per me si può anche piccare, guarda, con tutto che lo conosco, lo vedo anche del tutto. Perché come sindaco non vale proprio niente. persona, come medico ho calato tantissimo, però come sindaco poteva rimanere davvero, non ho fatto molti accidenti. No, guarda, la verità, Cla, io dovendomi sentire male lo preferisco come sindaco e come medico. Su quello te l'appoggio. Quindi preferisco un infermiere del pronto soccorso a lui. Ma lasciamo perdere, lo so molto bene. Non ti preoccupare, lo so, 2005 anni, da quando ero qua, così di circoscrizione, figurati. Lui era sindaco, l'abbiamo portato noi col partito con Margherita Sarda, quindi. Va bene, lasciamo perdere. Faccia quello che vuole, come non ci sono i numeri per poter fare un lockdown totale a Sassari. I numeri non ci sono, quindi è poco da inventare. Quando ci saranno i numeri allora se ne parlerà. Per il momento i numeri non ci sono. Avanti a chi tocca. Luca, Luca, non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è. Ti serve un vero. Ah, Luca, Luca. Già, riprendi tu. Sai che mi sta segnando il numero? Il numero di chi? Luca Maricomi. Ma cosa ti è successo? A chi? Ah, quando mai c'hai il numero di Luca? Ma neanche il mio c'hai già. Oh, Cla, ho cambiato il telefono, capito? Li ho persi tutti. Ma cazzo, se l'hai chiamato, Antu? Come? Mi hai chiamato? Io no. Ah, ok. No, perché c'è gente all'11 Alfa, non vi sento. Sì, ti ho chiamato qui per dirti, vabbè, all'11 Alfa, che cazzo c'è? Cazzo assurdo, un cigare, hai visto che era all'11 Alfa, vabbè, no. Vabbè, spostiamoci, che risposti ci sono? Andiamo al 20, se no non vi sento, eh. Oh, Cla, io al 20. Come il signore Casadone, Ah, oh, Lu, Filippo, perché te ne vuoi spaccare a Luca? Filippo, sono qua, ero... ero spostato, che stavo parlando con Massimiliano. Niente, dai, tra. Devo chiudere, dai, che mi voglio controllare lo spinotto del 60. Ah, eravamo già lì da un bel. Sì, io non ti intendivo, è che Luca manco me lo intendiamo da perché l'ha fatta sull'11 Alfa, capito? Senti mai smate. Ah, no, adesso abbiamo chiuso, dai, mi controllo questo capo, a vedere cosa... Se continua a fare il problema, 60, dai, Cla. Ma perché, che problema sta facendo? Quel problema là. Qui si sente questo... mi ha mandato il video, Massimiliano, appunto, e questo sottofondo si sente strano. Magari c'è qualche filo che sta toccando e non toccandomi nello spinotto, dai. Non c'è bisogno di fare il video, te l'ho detto da stamattina io che c'hai questo tipo rientro e la modulazione non è più come quando si è entrato le prime volte, capito? Quindi sicuramente qualcosa è successo. Infatti così ho almeno capito che non è la ventola, capito? Adesso vediamo, lo smonto e rifaccio le connessioni. Carta del rosmetto, va bene, beh, se no non siamo qua, intanto io fa un po', spendo tutto, si abbia il culo a radio. Avanti, Antonio, sì, sul 20, questo è il canale dei poveri, c'è nessuno? Siamo a ca. Siamo tutti qui, se mi vuoi mandare il numero, Claudio, mandamelo che me lo registro. Me lo descendi e poi invece mi ha chiamato Luca, Flipper, quindi no, lo stavo cercando per mandartelo, capito? Adesso te lo mando. Il mio è 129 finale, mi sembra, non mi ricordo. Avanti, Regè. Oh, a tutti l'ha chiesto, tranne che a me, però io gliel'ho mandato lo stesso. Ci sono, eh? Ho capito perché innescava questa cosa. Comunque ho notato una cosa, Cla, lo spezzone... siccome quel capo là non c'ho, c'è il PL, no? Non c'è quella specie di riduttore, non ce l'ho, allora gliel'ho saldato e poi gliel'ho avvolto così con la isolante per bloccarlo un po', ma balla, forse magari è quello, con lo spezzone lì che mi stava facendo il problema. Sicuramente, te l'ho già detto. Ehi, ai. Tu sei Claudio? Come qualche PL a casa. Due, no? Via. Vabbè, tanto l'antenna è a posto, cosa andata qua a fare il rosmetro qua? 1-1 in stazionare, chi se ne frega? Sì, che te lo ricomando a te e ho più rotto al telefono, eh? Ti ho fatto squillare un bel... non capisco a chi era. Avanti, a tenere c'è. Ehi, ho detto, anch'io ti ho mandato il mio numero a Gianni, anche se a me non me l'ha chiesto. A tu, ti spiego il perché. Sì. Te l'ho chiesto perché alcuni numeri mi sono rimasti. Cosa strana, c'è anche il tuo. Ho già, guardati, memorizzare nella SIM, non nel telefono, solo ritorno a perdere. Te devi memorizzare già nella SIP, non nel telefono. Sempre nella SIP. Ho già, e l'altro perché te l'hai cambiato, non andava più. Mi scriveva ricoveri e poi non caricava più, eccetera eccetera, mi ha rotto le balle e poi sono giunto a te. Non caricava più. Allora, ti devo ricordare una cosa, il telefono possibilmente quando si mette in tasca, assicurarsi di avere la tasca pulita, perché anche la polvere lì ci va sotto nel connettore, o magari l'ha rotto, ma è impossibile che sia rotto quel connettore, vabbè, comunque ci va sporcizia e poi è un casino, non ti carica più. Ma io non lo metto in tasca, sto un bel attento, mi controllo bene, tipo le giubbotte, se ho qualcosa no, me lo pulisco la tasca, ce lo metto in tasca, altrimenti succede questo problema qua. Vabbè, lui, ma quello non è il problema suo, se gli ha scritto recovery. Vabbè, se gli ha scritto recovery è perché c'è la memoria troppo piena. Quanti giga è questo già? No, gli ha scritto recovery. Quanti giga è già? Non lo so, santo, manca a vedere. Sarà un 64 giga sicuramente. Se non è un 64, è un 128. Quella per quella di Mondello, dì. Ma per il Covid c'è altre. Come dice il telefono di Gianni? Ci vorrebbe quella di Mondello che gli canta la canzone. La vitella? Quella Covid non ce n'è. Ma che prima o poi si dà mettere pure il culo. Comunque, Anto, secondo me questi alimentatori switching cinesi, dai, chiamiamoli così, non sono, secondo me, come faccio a sapere la quanti ampere dà? Ma lasciali perdere, ma non sai cosa mi ha fatto a me? Quando avevo il 440 in campagna, l'avevo lasciato in campagna. Non se non lo accendo. Ero in campagna, accendo l'apparecchio dal tratto power, c'era prima l'alimentatore. L'apparecchio dal power, sentivo tutto il display spento. Ho detto, boh, fritto l'apparecchio. Ho detto, vabbè, lo porto via a casa perché c'ha problemi, sicuramente sono tutti condensatori. Lo porto a casa, insieme all'alimentatore, io imbecille, no? Mi sono portato su anche l'alimentatore, lo metto sul banco, lo riaccendo. Oh, la stessa cosa. Ho detto, boh, adesso mi metto mano, lo apro, controllo le tensioni, boh. Mi mancavano delle tensioni. Alla fine che ci ho pensato prima di mettere le mani al VCO, cambio l'alimentatore ed era lui. Ma dite chi servi, un po' non servi, boh. Questo l'ho pagato 25 euro. Diciamo Luca, che servono ma non sono attendibili, se ne spendi 20 in più ti compri un alimentatore della Telecom, di quelli switching per apparati, un alimentatore della Telecom, della Nissi, della, ormai ci sono tante marche che li fanno uguali, un 30 ampere lo trovi a 60 euro. Vabbè, comunque per sapere gli ampere che dà cosa devo fare, perché qua in materia sono ignorante. No, per sapere gli ampere che eroga non puoi fare nulla. Per sapere gli ampere che gli stai risucchiando tu puoi mettere un amperometro. L'amperometro va attaccato alla 12, cioè l'uscita della 12, giusto? L'amperometro va in serie al positivo. E in serie al positivo dell'alimentazione a 12? A 13,8, dai. Beh, lui, se tu vuoi vedere l'amperaggio che stai assorbendo, è ovvio che lo devi collegare in serie al positivo, se no ti avete in serie alla fase. Sì, ho capito, là. E adesso, boh, mi sa che me lo ordino su internet. Vabbè, mi segna comunque... io voglio capire se veramente è reali da 50 ampere, ma non mi credo proprio, non con mostro. Ma quello non lo saprei mai. No, come cazzo fanno a venderti una cosa quando se lo sanno manco loro? Tanto? Sì. Allora, io non l'ho comprato dai cinesi, io l'ho comprato fuori, su internet. E non è... vabbè, sempre... però non è quello che vendono qua sassari cinesi. È molto robusto e c'è scritto 50 ampere. C'è scritto 50 ampere, capito? Sì, claro, c'è scritto anche nel mio. Io ne ho comprato uno anche da 70 ampere. Te l'ho pagato 50 euro che avrei preferito comprarmene uno di quelli, ripeto, di quelli che usavamo un periodo noi, tipo Telecom. Allora, quello là funziona bene. Questo mi ha dato questo problema qui, là. Fatto guarda che stavo per demolirmi la radio io, per un cazzo di alimentatore. No, questo dentro la scatola è arrivato da fuori. insomma, stacco baratto. Ho pagato 25 euro, ti dico che è un bellissimo alimentatore. Io ci avevo tre radio attaccate, hai visto che c'era la mossettiera davanti, con i gatti lì, rosso e nero, rosso e nero, rosso e nero, e ti dico che mi riportava una cannonata, mai creato un problema, ce l'ho ancora dentro l'armadio, l'ho usato l'altro giorno per provare l'Elbex col microfono di questa voce di Manda Gianni. E funziona veramente bene, la ventola silenziosissima, perfetto. È perfettissimo. Però non è comprato questo dei cinesi, è comprato fuori, una ditta che praticamente li vende. Infatti è molto più robusta la scatola, l'alluminio è molto più grosso, è fatto diversamente, capito? Ha l'interruttore accende e spegne già pronto, però c'è sempre la morsettiera davanti, capito? E la regolazione della resistenza variabile per il polso, infatti l'ho portato a 13,8 e l'ho lasciato così, ed è perfetto, funziona veramente bene. Sì, lo so, anche io, ripeto, uno ce l'ho così, e a quello lì avevo messo addirittura anche lo strumentino volmetro amperometro, 50 ampere, l'avevo comprato per 50 ampere, 60 di picco, e funziona bene, gli avevo messo anche addirittura il pomello, gli avevo tolto il trimmer, gli avevo messo il pomello per poter regolare la tensione esternamente, testare con questo trimmer. Però ripeto, l'altro, quello che avevo lasciato in campagna, se n'è andato a fanculo, così, di punto in bianco. Sicuramente la componente, vabbè, noi compriamo anche se tu dici qua, non l'ho comprato dai cinesi, tutto cinese, non hai capito, l'incomponentistica ormai è tutta della Cina, io non riesco più a trovare un componente, adesso l'altro giorno ho ordinato 5 componenti, sono arrivati, li ho piazzati, niente da fare, e roba cinese, e cosa fai? Non ordino più niente e non riparo più nulla. A tu prima se ti ricordi era tutta la roba made in Japan, adesso è tutta made in Cina. Prima c'era la Mitsubishi e costruiva i componenti, adesso, ma davvero, mi ho ordinato 4 transistor per una, 4 finali per una, per un gruppo di continuità per un amico. Sono arrivati, sono peggio di quelli bruciati, cioè, ma ce ne abbiamo conto in che male siamo? Non andava, non vanno, ma non misurano neanche, cioè io li ho montati, poi li ho misurati, quelli che mi, allora ne ho ordinato 8, 4 li ho montati e 4 li ho tenuti, siccome sono IRF e qua contano cari che non ce li hanno neanche, e li ho montati 4, poi li ho misurati quelli che sono arrivati e sono più scoppiati di quelli che ne ho tolto. Allora, io ne avevo uno che mi aveva regalato Gio Maria, la scheda che c'è dentro, quella là, non era questo granché, questa qua è diversa come scheda, capito Antonio? Del circuitino parlo. Questo qua sembra più massiccio, però anch'io l'ho comprato da internet e cloud, mica l'ho preso dai cinesi. L'ho preso dai cinesi qua a Sassari. E questa scheda qua, siccome l'ho smontato perché avevo fatto danno, avevo bucato quel condensatore, questa sembra più massiccia. Che modifica bisogna farli per farlo funzionare sugli apparati? È una modifica, poco da modificare. Praticamente devi bucare dietro il pannello e mettere, diciamo, le bananine, ecco, la chiamiamole così, dove tu avviti il cavo e il filo della 12. E poi, vabbè, devi comprare un interruttore per la ventolina perché io lo posso staccare, però qua si è staccata la ventolina. E poi l'interruttore accende e spegni già, se no devi lasciarlo diretto, quel cavo diretto. Adesso ti mando la foto, aspetta. E io l'ho fatto in un lineare quello lì, mi ho messo la ventolina con l'interruttore, l'ho fatto io. E accendi e spegni quando vuoi. Io al mio lui avevo messo il sensore a 40 gradi, si attivava la ventolina da sola e poi si spegneva, perché comunque c'è il rischio che poi magari stai utilizzando, che ne so, stai formando un lineare, te lo dimentichi, scalda e ti fotti tu l'alimentatore e tutto quello che ti è attaccato. Oh raga, dai, io mi sto preparando, lo vado a portare il cane, c'è già rotto, me lo 25, ok? Se ci siete a dopo, altrimenti ritenete che tutti salutati, Antonio, Luca e Gianni, e Luca Filippo se ne ascolta. Allora simile, ciao. Io vado a mangiare che tra un po' vado a prendere il tram, alle 8 e più. Altro, se ci sei dopo, io rientro verso le 8 e mezza a casa circa, dai, a dopo, ciao, anche vado a cenare. via, vai, ciao a Claudio e ciao anche a Luca, vai, buona carica e buona passeggiata. Avanti Antu. Ciao Cla, ciao Luca, buona carica, buona passeggiata, anche se ormai dicono che sono i cani che portano a passeggiare a noi con la museruola, Non ho bisogno di museruola, Romeo, non cagliarlo in capo. Ma io ho visto la foto dei cani che portano a noi con la museruola in bocca a passeggiare. Ma lui c'è la testa talmente grande che c'ha un secchio, l'ho fatto, capito? Cazzo, ma lo sai che l'altro... Vabbè, dai, adesso non so se ne devi andare, ma... Però l'altro giorno in campagna me ne stavo per andare. Poi è arrivato questo cane, una bestia di cane. Non se ne voleva più andare da casa. Io dovevo chiudere il cancello, mi ha messo le zampe dentro la macchina, si è coricato sopra di me, non c'era Cristo che tenesse, chissà di chi cazzo era, poi domani non c'era più comunque. Vuol dire che ti conosce perché hai già visto, vuol dire che è un cane di zona. E ogni uno qua vicino a casa lo stesso, che sta sempre nel giardino del signore, e quando salta dal giardino il primo a far venire è sempre incontro a me. Nonostante io ci abbia il cane, il maschio anche lui, però Filippo non fa niente, non ci gioca, non lo ringa, però non lo bagga nemmanco, e lui invece mi salta sopra tutto, capito? Perché conoscono il cane così, c'è niente da fare. Dai, vi saluto, se ci siete a dopo, altrimenti a frappè, ciao! Ciao Cla! Ciao! Oh già, un secondino che salgo un attimo, devo andare al cotiata. Secondino è andato a bancare. Vabbè, devo andare a pisciare. Vai a cadere l'acqua agli olive, va. È rimasto Marco Condo, sta facendo l'orecchione stasera, entra, aiuto! Ciao Claudio, già sono stanco perché è venuta anche oggi il maresciallo a farci, a mangiarci il cervello con questa storia dei calcoli, tutta roba che fa il commercialista, però dice noi dobbiamo comunque sapere come funziona il tutto. E quindi ci ha tenuto in assedio mezza serata già, quindi sono stanco, sono già fuso. E quindi un saluto a tutti, rimango in... Vabbè, in quelli X sono al computer praticamente nell'altra camera. Ok, ritenetevi tutti salutati. Vai Gianni. Ia Marco. Luca Baccacco da fare. Uia. Ma come la faceva? La ragioniera da giovane? No, lei ha lavorato al CNR, al centro di ricerca a Sassari, al CNR di Sassari. Ma è fiscale, cara. Deve essere che anche in ufficio era così. Le piace molto tutta questa roba di conti, di fiscale, cioè noi siamo casinisti ai massimi livelli. Lei è molto molto precisa, si conserva ogni ricevuta, tutto schedato, catalogato. Fossi ordinato così io, ma bene. Sono qua. Mi ricordo una certa persona a me, che conosco bene, era così, fiscale, conservava scontrini, tutto, riuscite le entrate, segnava, tutto qua. Vabbè, ma lei la ragione era qui. Tu di riserva, tu hai chiamato. Sì, sono tornato. Riprendete. Oh, avete parlato in 12. Che fiscale. Cazzo, di nuovo in 2. Ho detto riprendete voi, che sono stanco, vi rimango in ascolto io, dai. Vai a tu. Anche tu sei così fiscale, facendo conti, conservando scontrini e facendo. Sì, io sì, io davvero, sono sempre stato abituato a osservare tutto, ma qualsiasi cosa è, anche cosa ne so, il fondano vero e non fanta, un esempio. No, io con la documentazione sono ordinato, ce l'ho tutto in cartelle, ogni cartella c'ha scritto quello che contiene, tutto quanto, però con i conti no, i riscontri di bili e di ricuni, una volta che spendo, prendo e ci ributto, almeno che mi servono come garanzia, allora li metto nella scatola e niente, li conservo, però quando faccio la spesa, per dire, prendo e ci ributto, invece una persona li conservava, capito? Si metteva tutti uno sull'altro, tutti catalogati, data per data, segnava le date riuscite, tutto quanto. No, sì, io quando vado a fare la spesa in realtà li tolgo dalle tasche e li metto da parte, non li butto, non sono quello che li appallotto e li butta in strada. Li porto a casa, li metto tutti quanti assieme, poi magari non li guardo neanche, ad esempio, però ce li ho, nel senso che se mi capita per esempio di vedere un movimento strano in banca o riscontro, ho capito, li tengo per quel motivo lì. Sì, vabbè, ci ha restato il conto, fa restato il conto e ti dice tutto quanto. A me, io faccio restato il conto quando vado a ritirare i soldi e mi dice tutto. Ah beh, comunque è una questione di pignoleria e anche, diciamo, la mia ex moglie era così, era molto pignola. Anche io sono molto pignolo, ma metti il caso che ne so, tu dici che è stato a conto, va bene, è stato a conto, ok. Ma metti il caso che io vedo un movimento in banca, che ne so, fra un mese, mi sorge un dubbio, guardo la lista movimenti del mese scorso e c'è, che ne so, un movimento alla CRAI, 56 euro. Cosa, come posso ricordarmi che li ho spesi io? Io vabbè, compro quasi sempre, compro nello stesso negozio, quindi so più o meno, vado sempre di solito il lunedì, perché lunedì arriva tutta la roba fresca, la verdura, la frutta, tutta la roba fresca, quindi vado il lunedì, quindi so anche la giornata, il giorno che vado, quindi. Ma lo so, Anto, è una questione anche di pignoleria, dai. Cioè c'è chi è più pignolo e chi è meno pignolo. Io un po', a me mi danno fastidio gli scontri, non li butto in terra come hai detto tu, li butto a casa, però li butto. Una volta che arrivo a casa li tolgo dalla busta e ci rimetto nella carta. No, io invece li tengo in tasca a prescindere, perché quando pago, io raramente pago in contanti, pago quasi sempre con la carta. E quindi quando mi danno la carta mi danno anche lo scontrino, quindi metto in tasca uno e l'altro. Però poi quando arrivo a casa, quando mi svuoto le tasche, magari sai, non il giorno, magari la sera, l'indomani, che mi sono cambiato, perché io prima di mettere la roba a lavare svuoto tutto e lascio sulla sedia la roba da lavare, però vuoto sempre le tasche. E quindi li metto da parte, perché dico, ma magari ho comprato qualcosa che in garanzia, lo tengo da parte. E poi li guardo, che ne so, magari dopo un paio di giorni li guardo, vedo che non c'è niente di importante e butto via tutto. Io l'unico scontrino che conservo è quello della farmacia, li metto da parte perché poi me li scarico, perché se no manco quelli avrei conservato. E vabbè, quelli della farmacia li scarico anche io, farmacia, dentista, quello che riguarda spese per il gatto, tutto. Lo so, anche io li conservo, le fatture, visite ospedaliere, eccetera, eccetera. E vabbè, quelle cose lì sì, però gli scontri di blu più. Addirittura c'aveva il libro di uscite, quello che usciva è quello che entrava. Così sapeva tutto. Lo so già, non è una questione di capire, la verità. Anche io sono così, invece mia moglie è molto più... fa niente. Quante volte dico, ma scusa, ma tu, non è che... non guarda mai quanto abbiamo in banca, dice, mai, non mi chiede mai niente. Diciamo, si fa scivolare tutto addosso, come si suol dire. No, ma non gli interessa, nel senso che... mi dice sempre, vabbè, lo so che i conti li tieni tu e io mi fido di te. Però io potrei anche, che ne so, uscire di testa domani mattina, spillare tutto quello che è, vabbè che sono anche soldi miei, non è che... Però, sai, uno dice, tu pensa che il suo banco, ma che non l'ha mai attivato. Lo uso molto il banco, ma invece, lo uso sia per prelevare, sia per pagare... per pagare le... prima usavo molto di più la carta di credito, poi ho visto che a volte spendo più del solito, quindi non mi rendevo conto perché ti riprendeva la mese plus, la mese plus io, cavolo, non c'avevi più soldi. Ma me la vai, no, meglio con la carta di credito, vabbè, non c'è più soldi, i conti già ci sono, ma dico, ti spendi di più soldi di quelli che devi spendere, per intenderci. Vabbè, ma poi adesso con questa applicazione delle banche, in tempo reale sai, anche io, se ho anche l'assistente, quella, un affarino che mi dice quanto spendo, che ne so, per mangiare, per bere, per cagare, in benzina. C'ho un assistente del, come si dice, del programma, del, dell'applicazione che ho della mia banca, no? Che ogni tanto mi compare e mi dice questo mese hai speso di più in cibo che ne so, in benzina, oppure questo mese hai speso più in benzina che in acqua. Capa. Sì, sì, lo so, che certo, mi sfida ogni tanto, dai. mi sfida, ma che si facesse i fatti suoi ogni tanto, cioè non è che io, allora, via ti controlli, pure che si vuoi comprare. Ma che adesso ti fanno pagare un bel di cose, di operazioni, ti fanno pagare un sacco di soldi, anche col banco, ma ogni volta che vai ti fanno pagare un tanto, lo sai? No, io ho la promozione, ho le due carte gratis, perché io comunque sono legato a un mutuo che ho della casa di campagna, e quindi quando ho fatto il mutuo, ho stipulato il mutuo, per il, tutto il, quanto la decorrenza del mutuo, tutto gratuito. Tanto è vero che mi hanno dato anche la carta nuova adesso, così posso andare anche all'estero, che ci potevo andare anche prima, però sai. Invece a me mi hanno mandato una cosa che fra poco ritireranno tutte le, tutti i bancomat, li faranno nuovi, li fanno con una modifica di qualche cosa, sicuramente per non clonarmi, capito? Stanno facendo, io l'avevo appena rinnovato da poco, mi hanno detto che c'è tempo sino a dicembre 2021. Anche a me mi hanno detto così, ma poi me l'hanno mandato nuovo, mi è arrivato la settimana scorsa e l'altro dall'applicazione l'ho, come si dice, bloccato, resettato, abolito, bloccato, che scatta, come si dice, l'ho eliminato, annullato. Esatto, sì, si dice annullato. E vabbè, io dovrò andare in banca sicuramente, perché a me non me ne mandano a casa, me lo mandano in banca e poi devo andare lì e me lo attivano lì direttamente. Io già ho fatto tutta l'applicazione, ormai pago tutto, faccio bonifici, tutto dall'applicazione del telefono, in banca, che ti ha dato? L'ultima volta che sono andato in banca è quando ho ritirato dei soldi che avevo in un fondo, in un deposito di quelli che utilizzavano per fare investimenti, ma ho ritirato tutto quanto, forse 2 anni fa, un anno e mezzo fa, mi sono ritirato tutto quando ho comprato, come si dice, quando ho fatto l'atto, e quindi ho tolto tutto. Vabbè. Si fa le formiche dopo, per dire una volta di Sicilia, a me oggi quest'anno mi sono detto 3.000 euro, te l'ho detto, così di colpo. Per poco non svengo quando me l'ha detto che non si poteva pagare a rate. Mi stavo per sentire male, quindi mi è venuta un attacco di panico. Ti capisco. Ma io cerco sempre di conservare qualcosa, di sistemare qualcosa per lasciarlo per mia figlia. Io ho una figlia sola. Poi se lo vuole tenere, se lo tiene, se lo vuole vendere, se non vende, io quello che gli posso lasciare, gli lascio. Poi ripeto, tanto quando muoio non mi posso portare via niente e in ogni caso non avrei voluto niente. Ah, io ci ho già pensato, tanto per non fargli pagare la successione l'ho intestata a loro la casa. Quando muoio se la prendo, senza fare atto di successione che costa la barca di sud. Io, vedi, adesso sto valutando con mia mamma per la campagna, quella che è di mia mamma e di mio babbo, che io sono la mia, e niente, infatti me ne ha parlato anche l'altro giorno con i miei fratelli, ho detto se ce lo paghiamo adesso non paghiamo poi la successione, perché altrimenti quindi al limite ce lo intestiamo, solo che intestarcelo significa che poi ci dobbiamo pagare anche le tasse noi, perché mia madre mi ha detto, ma tu ti paghi le tasse? No, informati bene, sin quando ci abitano loro devono pensare tutto loro, poi quando lo prendi tu ci pensi così, ci ha detto il notaio, quando io ho fatto l'atto gliel'ho lasciato in usura. frutto a me e testato a loro. Sì, sì, ho capito, sì, come funziona così. Però, ripeto, io francamente lo sto facendo, ripeto, per mia figlia, io per me, quello che ho mi fa se mi avanza. Tanto ripeto, oggi già 50 anni, anche se dovessi campare che non è, in ogni caso non me ne farei niente a prescindere. Perché poi diciamo, se quando i figli sono piccoli, vai, cosa, dopo non ti rimane più gana, mi hanno di scendere in campagna, di fare questo e fare l'altro. Che resta nella tua casetta, al calluccio e via, non è che. Vabbè, 50 anni sono pochi, anche io sono una fesseria. Io ne ho 61 già, figurati. Diciamo che sono pochi, l'età che c'hai tu è già giovanile, è mezza età, ma adesso ho visto al televisore uno che ha compiuto 51 anni, era 6 volte più vecchio di me, ma molto, molto, sembrava proprio un anziano. Perché funziona così, ma non è, ripeto, non è figlio, già mi sto occupando della mia di campagna, cioè, devo fare delle cose, molte volte mi posso, io ci scendo sempre tutti i fini settimana, anche molte volte durante la settimana, quando non ho da lavorare, che non, la vita mi dice no, oggi non c'è niente da fare, vabbè, cosa faccio? No, io me ne sono in campagna, ma cosa da fare, la, ce l'ho sempre. Però dico, il sabato e la domenica molte volte, che vorrei rilassarmi, ci sono male tante altre cose da fare, c'è quel pezzettino dell'erba o delle frasche che vanno nella rete vicino a tagliare, cioè ci sono tante cose e io già mi occupo di questa, se mi devo occupare anche dell'altra. Quanto grande è la tua? La mia sono 7500 metri quadri. E cosa c'hai, vigneto, cosa c'hai? Tornato sono, un pezzo di mammo, un pezzo di mammo. Tornato sono. E perché è freddo c'è? Certo non va freddo, ciao, scusate che sono messo male di antenna. Che c'è in FM? Che messo male di antenna. Sì, aspetta, sì. Scusate, va. E di meglio prima. Lo so, aspetta. Antu, dai, c'è la compagnia, ciao Tino, ciao Claudio. Io faccio il correttivo e vado a portare giù a Tyson, là. Ci sentiamo, questo è già sceso dal letto, ha compreso via che dovevo uscire, un po' che long. E via, ciao già, vai, buona passeggiata anche per te allora. Ciao già, ciao, ci sentiamo, là. E io mi sono entrato proprio perché per essere un po' di merito. Ciao Tino. Tino, ci ha sì? Io c'ho questo problema, conosco molto la radio, avevo normalmente accordare, boh, a me non lo faceva. A me sì invece, scusate. Passa le voci, Fla. Ah, tu lo misi sfasciando la tua parlante. Eccomi, sono qua presente ora, eh. No, no, è così, Fla. A me lo fa. Quando, dopo l'ho appena acceso, L'ho appena acceso, quindi mi ho usato questo computer di antenna e vedevo che non andava. Adesso sta andando. Ti sto facendo sordo, diciamo che ne abbiamo, non tocco niente, lo sento. Ascoltami, a me sai quando me l'ha fatto una volta? Avevo comprato un commutatore d'antenna e aveva l'impedenza diversa. Guarda, non lo so. Comunque ciao, ciao a tutti. Non voglio parlare di impedenza, di questo, quest'altro, perché a quanto mi ha detto Luca, me le ha misurate e sono tutte sballate, quindi non mi interessa, l'importante è che se va bene. No, quando accordi poi va bene, quando fai il cambio praticamente scendi di 20, da 9.20 fai a 9. Ma adesso è normale, guarda un po', 1, 2, 3, prova. 10, 9 più 20. Comunque Antonio ha un pezzo di mammo di viene in campagna. Sì, ciao, marmo e ciò quello che vuoi. Ho sentito il bip di Antonio Bombo, che è? Anto, tu sei? Sì, buonasera a tutti, buonasera. Sono io. È confondibile un po' il bip. Perché Antonio dice è molto forte per radio. Esatto, claro, devo stare abbassando il volume perché sennò mi spacchi l'altoparlante del 140. Il 430 questo, lo uso poco. stai solo urlando qua, non strappa. Urlando io? No, non è lì. Io parlo molto, molto piano. Forse poco fa non sono entrato. Stai urlando qua, fidati. Urlando? No. Guarda, sono a 30 centimetri, sto parlando normale, senza problemi. No, stai urlando. Vabbè, io 30 no, 50 sì, Vabbè, e parla per non stare, troppo forte perché? A me va bene, è forte ma va bene. A me non mi disturba, lo sai, però è più forte del solito. Sì, più forte del 140 sicuramente, il 430 è andato anche più forte del 440, senza un vero dubbio, però non sto tirando la verità. Avanti, Antonio Riserva. Aspettato un attimino, c'è andato Gianni, non l'abbiamo neanche salutato. Ciao Gianni, se ci sei ancora. No, io l'ho salutato. Anche io, ciao Gianni, un abbraccio. E ciao anche Antonio che è entrato. Buonasera. E buonasera a tutti. Secondo me non anda solo di modulazione il apparecchio, anda pure di altro, che a fondo scala e no. Allora l'ho abbassato di una, era a 1,8, l'ho messo a 1,5, così meglio va a prima riserva. Infatti, sono abbassato, devo uscire, dai, così meglio va a prima riserva. Ci sentiamo fra un po' là che sta andando a prendere Gabriele. Ehi, a te, così bene va. Guarda a vedere, l'ho abbassato da 1,8 a 1,5. Perfetto. Grazie mille, puoi andare, ciao a dopo. Riserva. Ehi, ciao a te, a dopo. Sì, no, eri fortissimo. Sto classe, te lo sto dicendo. No, non stai andando male. Però eri esagerato. E se mi ti dica, non accendo mai che te radio, tu. Accendo poco. O quando l'accendo sempre in 40 metri, perché c'è comodo e c'ho l'antenna da quando porto 756, che non ce l'ho più. Ho messo l'antenna lì, capito? Quindi Comodo 27 oppure l'antenna HF. Adesso come ho fatto sto usando ancora era 1,8, adesso l'ho messo a 1,5, 1,5 di valore Michigan, l'ho abbassato di 3, bene va. Questa radio del passato non ne fabbricano più e non ne fabbricheranno più. Finiranno queste linee Kenwood che se ne porteranno ancora fra 20 anni e poi non ci sarà più niente di radio. Lo so. Vabbè. Queste sono radio che io ho iniziato a trasmettere, soprattutto il 430, subito dopo il 757, la prima serie, perché poi si trova il GX, il GX2, c'è la prima serie. Ho comprato il 430, io e il Marco 131 da Mario Nottari, quindi nel 1997, cioè il 1987, capito? Quindi mi ho fatto una cultura e sono le migliori in assoluto, cioè poi per la mia modulazione. Non è tanti che vanno in interradio, ma se bisogna dici come te ci dico il 430. Lascia verde, vai bombolo! Che cappa, bella radio! Bella radio, pompa duro, pompa pure un bel pompa. A me lo sai cosa mi piace molto, con l'RM Italy, quello mi piace a me. Quella è un'altra bellina, e quella che è sempre, è sprecato a metterlo qua, capito? Quello è sprecato, l'ho provato qualche volta, ma io lo posso attaccare anche qua, alla 430, a 140, quello non ce n'è problema. Capito, vedo 10 watt edo bomba, però è sprecato, no, non mi interessa. C'ho anche l'altro valvole che me lo sono ripreso, l'avevo venduto e invece me lo sono ripreso. Mi ha telefonato, ma te lo rivuoi, lo sto vendendo, stessi soldi, sì, e io portamelo. No, non ci posso, vabbè, sto arrivando io. Sono andato e me lo sono preso l'albergo, quindi per dirti no. Va bene, cosa stavo dicendo tu? Ti ricordo che la stampa è molto più vuota adesso, le due basi sono sparite, non c'è più niente, sto lavorando con la scrivania, quella piccola, e c'è il 430, il 440, il 140, l'alimentatore PS50 e l'SP430. 230, ne ho fatti 250. Questi fatti 230, ho venduto anche quello. E poi sotto c'è i due magi VHF e VHF, ma il resto non c'è più niente. Adesso quando migliorerò qualche radio, poi ho promesso che prima o poi me lo voglio prendere, una bestiolina, una bella bestiolina. Allora c'ho paura che se si fosse a casa lunga faccio in gomma, c'ho paura. In che senso? E rungavo si può a cirimella, amico, capito? Che mi piace, a me mi piacciono molto gli amplificatori, però ho paura che questo capo non regga. No, anche se è un amplificatore buono, non metto di cambiare il capo, ho detto che devi fare. Sono disposto a dartelo io, già pronto, con il PL da una parte e dall'altra, che sono quelli che avevo i cavi delle direttive, e sono nuovi nuovi. Però devi bucare il montante della finestra per farlo ripassare, in modo che chiuda bene, capito? Perché con quello lì se non lo visi bene, lì se è grosso e non fa. Poi se una volta te ne vai da lì, ci sono gli stucchi per legno, lo stucchi bene, lo carteggi, le dai una passata di vernice, non si vede niente, capito? Allora puoi avere un amplificatore serio, ma con chi sul bravo lascia perdere. Perché io solo facendo una prova una volta con uno spessore di Reggi 58 con l'FL 2100 cartesima mi sono lumbabutto. Già lo so già. No, al massimo puoi dare 200, boh, no, non di più, se no si brucia tutto in notte. No, non so cosa può succedere. Cosa succede a tu? Si scalda dentro il cavo. Si fa da cirimella. Ma guarda, con le RG 58 non lo so, massimo tiene 200-300 watt, non di più, Non di più a che si fa da cirimella, si fa. Cazzo! No, Antonio Reserva ti dice, no, a te, cosa che non ho capito, se avete lo stesso segnale, cos'è che succede? Si scalda dentro? La prima parte è il polo caldo, quello che si è a scaldare, poi si fonde tutto assieme. Quindi è per quello che ho cominciato a vedere fumo, ho detto, vabbè, io ci tenio. Non mi ero accorto che stavo usando uno spazzone di Reggi 58 tra l'FL 2100 e l'HF. L'ho subito accorto, buttato via proprio, buttato che era già molto, c'era Giuliani. E ho messo subito lo spazzone di H1000 con i PL buoni. No, bisogna stare attenti anche perché i lineari non scherzano, l'amplificatore quando eroga, soprattutto quello a valvole. Anche quelli transistorizzati stanno venendo fuori belle cose. Va bene. Comunque, tutto l'ho detto, quando sarai pronto, tu fammi un fischio di queste radio, ne troviamo quanto ne vuoi. Quanto ne vuoi, guarda. Tu immaginati che ce n'erano 3 o 4 su eBay in vendita. Mi hanno chiamato a me personalmente. Perché hanno chiamato chi me l'ha messa in vendita. Capito? Hanno voluto sapere di chi era quello di Navetta, mi hanno chiamato personalmente, subito, immediatamente. Non a Sassari, però non lontano. Personalmente per comprarcela, perché sanno che io le radio quando ce le ho le uso bene. E le so usare bene, capito? Quindi si fidano. Ma come devo fare, cioè, per utilizzare, per misurare? Secondo me questo Rosmet non ce la fa. Allora, io devo misurare quanto dà l'amplificatore di watt. Praticamente devo mettere dalla radio all'amplificatore, al rosmetro e poi l'antenna, così è. Aspetta che mi stavo sbracciando le scarpe e non ti ho seguito. Devi attaccare l'amplificatore per misurare quindi amplificatore, radio, eccetera. Tanto è molto semplice.